nell'arco di questi anni si è molto interrogato e ha sollecitato domande non soltanto sui temi dell'identità nazionale, ma della politica, della cultura, della società italiana. In particolare, Marcello Veneziani è un studioso intellettuale che si misura con i processi di modernizzazione. Io lo trovo questo un aspetto straordinariamente interessante, che media anche, se posso dire, tra filoni ideologici spesso ostili alla dimensione della modernizzazione, e invece capire come questi si possono trovare anche un nuovo senso, una nuova impostazione, proprio non negando ma affrontando la modernità. Ad esempio, Marcello Veneziani è da forse un anno e mezzo, ormai anche un collaboratore fisso del giornale, per cui, come dire, molto spesso interviene nel dibattito nazionale, e più volte nel corso di questo anno è intervenuto proprio sui temi dell'identità. Io ricordo un dibattito con Marcello Veneziani, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, in cui discutevamo dei confini, il senso dell'identità, se l'identità era qualcosa, come dire, di definito, oppure un elemento di processo. Era su questo che, dopo aver lungo discusso dei confini, ci eravamo trovati con uno sguardo diverso. E nella sua riflessione sull'Italia, sui 150 anni, su cos'è la cultura degli italiani, Veneziani introduce questo elemento, che la globalizzazione sicuramente mette in crisi gli aspetti tradizionali delle comunità, ma può essere anche un elemento di valorizzazione, e che se si partisse da un riconoscimento della storia e non soltanto da processi di autodenigrazione, forse la dimensione dell'essere italiani potrebbe essere un ulteriore elemento per affrontare ciò che sta trasformando velocemente la nostra società. Mi piace però dire che in questo senso Marcello Veneziani legge comunque l'identità nazionale con un percorso di apertura, non c'è una chiusura verso i nuovi italiani, anzi l'elemento di nuovi italiani può diventare, dentro una cultura identitaria forte, un ulteriore elemento di rafforzamento. Non vado oltre, lascio a Marcello Veneziani la parola. Io ringrazio Luca Borzani e confermo, diciamo, un mio antico interesse nei confronti del tema dell'identità nazionale, a cui ho dedicato alcuni saggi oltre che svariati articoli, ritenendo che appunto l'identità italiana debba costituire ancora un punto di riferimento nell'epoca della globalizzazione. Aggiungo anche, così per dare una caratterizzazione generale, che faccio parte di quel comitato per i 150 anni dell'Unità d'Italia, presieduto da Ciampi, che in un primo tempo era partito con grandi premesse e promesse, poi si è improvvisamente arrestato, come se l'identità nazionale fosse, come dire, una cosa da rimuovere, i 150 anni fossero un compleanno da rinnegare, e successivamente negli ultimi mesi invece ha ripreso un po' fiato questa idea di ricordare in modo conveniente l'identità nazionale. Devo anche aggiungere una notazione che è un piccolo orgoglio personale, cioè nel senso che il Comitato ha fatto propria, e ha lasciato che il Governo lo facesse, l'idea di celebrare il prossimo 17 marzo come festa dell'Unità Nazionale, celebrandola a tutti i livelli, quindi anche nelle scuole e anche in altri luoghi, perché il tema di fondo dell'Unità Nazionale e della memoria storica del nostro Paese sembra aver mortificato negli ultimi anni il tema del Risorgimento, che è uscito dai programmi scolastici sin dalla riforma Berlinguer e non vi è rientrato con la riforma più recente della Gelmini, e credo che sia uno dei temi più dimenticati nella storia del nostro Paese. Siamo passati da una oreografia risorgimentale, con tratti retorici, a volte anche fastidiosa, ad una amnesia nei confronti dei temi risorgimentali, che credo sia ancora più deprimente. E quindi ripensare oggi la storia, iniziative come quella di Genova sono indubbiamente propedeutiche, questo risveglio, credo che sia un'esigenza importante. Aggiungo altre due cose che forse possono introdurre meglio al tema che affronteremo in questa mattinata, e cioè che in sede di comitato per la celebrazione dell'Unità d'Italia sono intervenute due interpretazioni, a mio avviso non positive per il riconoscimento e la valorizzazione dell'identità nazionale. Una mostra nazionale organizzata a Roma è dedicata alle radici dell'identità nazionale e alcuni componenti del comitato di storici hanno ritenuto che la parola radici potesse evocare un non so che di razzismo. Ecco, io credo che evocare le radici, che ha ovviamente un richiamo più che altro arboreo, legato diciamo alla storia e alla natura e non legato ad atti di violenza, perché l'idea di sradicamento è molto più violenta dell'idea di radici, credo che ritenere che tutto questo possa configurarsi come razzismo significa da un verso non considerare l'importanza delle origini, se vogliamo declinare in modo diverso la parola radici, dall'altra parte significa non considerare che lo scritto più bello dedicato alle radici, che sia stato scritto nel Novecento, è di Simone Weil, che era un'autrice, una pensatrice ebrea, operaista, legata ai movimenti rivoluzionari della sinistra, per certi versi anche trotskista, anche se con un percorso mistico e metafisico di altra natura. Questo per dire che alle volte la paura di alcune espressioni inibisce l'incontro con le identità, con le radici culturali, con le origini di un paese. Così come un'altra idea era emersa nel comitato e a mio avviso è abbastanza fuorviante, cioè la convinzione che si debbano celebrare i 150 anni della nostra storia soffermandoci soprattutto su ciò che è accaduto nel Novecento e in particolare su ciò che è accaduto nel biennio tra il 43 e il 45. Io credo che le occasioni per ricordare la guerra di liberazione o per ricordare il Novecento ce ne siano e anche a bizzeffe. Una volta che abbiamo l'occasione di parlare del Risorgimento, è bene che si parli del Risorgimento, cioè che si affronti il tema dell'identità nazionale e il tema dell'unità d'Italia, considerando anche un altro paradosso, e cioè che i grandi temi che oggi agitano il nostro paese, il difficile rapporto tra nord e sud, tra Stato e periferie, il federalismo, sono temi che evocano più i dibattiti che erano le origini del Risorgimento che i dibattiti che sono nati sull'orlo della guerra civile nel Novecento. Nel senso che nord e sud, i grandi temi che oggi in modo particolare sconvolgono il nostro paese, non sono temi che risalgono alle ideologie del Novecento, sono temi che rievocano quella grande ventata risorgimentale che caratterizzò appunto la metà dell'Ottocento e che portò poi al risultato dell'Unità d'Italia. Quindi oggi ripensare l'Unità d'Italia, ripensare la storia d'Italia a partire dall'Ottocento, credo che sia un dovere anche per ricostituire un pensiero di identità nazionale nel nostro paese, ritenendo che il nostro paese non sia nato nel Novecento, non sia nato né con l'antifascismo né con il fascismo né con la prima guerra mondiale né con la seconda, ma che abbia avuto nel Risorgimento il suo primo punto di riferimento. Dico primo punto di riferimento e non dico atto costitutivo, perché credo che sia giusto anche ripensare all'unità italiana attraverso il paradosso italiano. Noi siamo un paese con uno scarso senso civico e con un debole senso dello Stato, però contrariamente a quello che alle volte noi stessi riteniamo, siamo un paese con una forte identità culturale e civile. Siamo profondamente italiani, vorrei dire nonostante noi stessi. Abbiamo una forte identità che non passa attraverso i luoghi della politica e delle istituzioni, ma passa attraverso i luoghi della cultura, del carattere, della personalità, del costume, vorrei anche dire della moda, della creatività, della gastronomia e di altri ambiti più periferici. C'è una forte identità nazionale e sono convinto che se esistesse un criterio di distinzione della personalità delle nazioni, l'Italia avrebbe una delle personalità più spiccate al mondo. Questo per dire che noi viviamo sull'orlo di questo paradosso, cioè avere uno scarso e recentissimo senso dello Stato, nel senso che i 150 anni non sono una grande storia per un paese, però abbiamo una più antica matrice identitaria, che risale alla nostra lingua, che è una delle lingue più antiche e più nobili d'Europa e che preesiste allo Stato unitario, sappiamo, di diversi secoli. Affondiamo le nostre radici nella romanità, nel medioevo cristiano, in tutto ciò che è accaduto dopo l'umanesimo, il Rinascimento, e credo che si possa parlare più che di nazione italiana, di una civiltà italiana. È una civiltà che non è assolutamente, come dire, in antagonismo con la macro appartenenza a una civiltà europea, ma credo che costituisca uno degli elementi peculiari di quella identità. Noi siamo una civiltà, siamo un'identità di paese e siamo un popolo che, pur nella diversità fortissima che al suo interno caratterizza le diverse regioni, le diverse culture, siamo un paese che ha una linea identitaria abbastanza viva. E lo avvertiamo nella vita quotidiana, lo avvertiamo nelle radici culturali, nelle propensioni, lo avvertiamo anche nei vizi e nei difetti del nostro paese, ma credo che esista un'identità italiana abbastanza forte e abbastanza netta. Ecco, la debolezza storico-culturale della nostra idea dell'unità d'Italia è dovuta probabilmente all'impostazione idealistica che ha prevalso per molti anni, perché voi ricorderete soprattutto un grande libro di Benedetto Croce sulla storia d'Europa, che riteneva in sostanza che l'Italia fosse nata con lo Stato unitario italiano. Ed era un'idea che in fondo accomunava tutto l'idealismo italiano, compreso Gentile, cioè la convinzione che lo Stato a fare gli italiani, che quindi la vera nascita del nostro paese è nel 17 marzo del 1861. A questa idea si contrapponeva invece la convinzione di uno storico come Gioacchino Volpe, che riteneva al contrario che l'identità italiana preesistesse allo Stato unitario, che affondasse le sue radici nel medioevo cristiano, nella romanità, nella civiltà giuridica romana, nell'idea stessa di imperium e di cittadinanza di Roma e nella lingua italiana. E quindi l'unità d'Italia del 1861 era il coronamento di un processo secolare che aveva trovato radici, ispirazioni e forme espressive diverse rispetto alla configurazione di una unità territoriale. E quindi credo che questo sia forse il, come dire, il segno interpretativo che consente di incontrare l'identità nazionale fuoriuscendo dall'autodenigrazione di uno Stato debole, malcerto, di un senso civico scarso, di una scarsissima appartenenza all'identità nazionale. Credo altresì che quando si riporta alla luce l'idea che l'Italia sia in realtà divisa in due o in tre parti, non si rende ragione delle ricchissime diversità del nostro paese, che sono molto più ampie di quelle tra nord e sud, come spesso si dice. C'è un'Italia riverasca e un'Italia dell'entroterra, che sono molto diverse. C'è una provincia italiana profondissima che differisce dalle metropoli italiane. C'è un'Italia del versante tirrenico e una del versante adriatico. Persino Dante, nel De Vulgari Eloquentia, parlava di un'Italia destra e un'Italia sinistra, non facendo riferimento al bipolarismo attuale, ma riferendosi proprio geograficamente al versante tirrenico e al versante adriatico. E c'è quindi una diversificazione all'interno di questa coinè italiana che credo sia uno dei tratti peculiari dell'originalità italiana. Quindi quando si vuole ridurre il concerto delle differenze alla sostanziale differenza tra nord e sud, non si rende ragione di questo paese, della sua varietà, delle sue sfumature, e non si rende ragione della sua unità dall'altra parte, cioè del fatto che nonostante queste diversità qualcosa ci ha legati. E allora, prima di arrivare ai nostri giorni e porre il confronto tra l'identità nazionale e il processo di globalizzazione, vorrei soffermarmi brevemente su alcuni tratti costitutivi del nostro processo unitario. Io sostengo da tempo che il nostro risorgimento, che fu un atto necessario e complessivamente positivo nel nostro paese, ha però escluso tre mondi essenziali nella sua formazione, che in realtà non sono stati mondi esclusi, ma mondi che si sono al tempo stesso auto-esclusi. Mi riferisco al mondo cattolico, che fu gradualmente espulso dal processo unitario, con l'iniziale adesione che sappiamo. Mi riferisco al mondo contadino, che fu largamente estraneo al processo unitario, perché in fondo fu la borghesia a promuovere l'unità d'Italia, e mi riferisco al mondo meridionale, che visse piemontesizzazione d'Italia, come allora si disse, come un processo impositivo calato dall'alto, una forma di colonizzazione a cui aderì una parte, direi minore, della borghesia meridionale, ma larga parte dei meridionali ne restarono fuori. Quindi potete immaginare per un contadino meridionale cattolico che cosa fosse l'Unità d'Italia, fosse una triplice esclusione. Io credo che dobbiamo partire da queste carenze dell'unità nazionale per renderci conto poi della difficile integrazione, per renderci conto del processo reattivo e per dare anche una risposta, diciamo, più argomentata e meno integralistica di quella che si è data finora a proposito dei conati antirisorgimentali che caratterizzano oggi il nostro paese. Sono conati che a nord assumono appunto le valenze di un rifiuto dell'unità d'Italia e a sud assumono le valenze di un ricordo dell'esperienza borbonica o dell'esperienza del brigantaggio. E sono, come dire, letture che devono essere integrate in una storia comune, non possono essere espulse, nel senso che c'è in quelle letture anche un seme di verità unito ad altre considerazioni che probabilmente veritiere non sono. Cioè, che cosa voglio dire? Vero è che la Napoli del Settecento era molto più europea della Napoli post-unitaria, ma parliamo della Napoli del Settecento. La Napoli dell'Ottocento e il regno delle due Sicilie dell'Ottocento era già un paese in declino e che quindi viveva il processo di ritorno dei Borbone dopo l'esperienza della Repubblica Napoletana come un processo residuale del passato, in cui, come dire, le energie forti che avevano caratterizzato in positivo il Settecento napoletano, la prima metà del Settecento, si erano ormai esaurite. Così come quando diamo uno sguardo al brigantaggio dobbiamo considerare che c'erano nel brigantaggio motivi di insofferenza e di disagio e di ingiustizia che venivano raccolti dai briganti, ma c'erano anche motivi di criminalità pura. E sarebbe un grave errore ridurre il brigantaggio solo a criminalità o solo a una forma di resistenza quasi credentistica rispetto al processo risorgimentale. Fu l'uno e fu l'altro. Ecco, io credo che una visione disincantata dei processi integrativi dell'identità nazionale si debba fare, perché è l'unico modo per comprendere all'interno dell'identità nazionale anche le componenti che oggi sembrano essere più refrattarie. Non si può negare che il processo sia stato un processo forzoso, con tappe autoritarie, con forme anche di dispotismo abbastanza forti. Ricorderete la dittatura di Garibaldi in Sicilia, e tanti eventi, dal massacro di Bronte ad altri eventi, ma questo non ci impedisce di guardare al Risorgimento come un atto necessario, fondativo per il nostro paese, è in grado di coronare quel processo antico, tradizionale, che caratterizzava la cultura, la vita, la civiltà del nostro paese, che era questa comune appartenenza ad un modo di essere, di sentire, di vivere, che possiamo definire italiano. E quindi l'errore della polemica antirisorgimentale è quella di fermarsi su alcune forme sicuramente cruente di posizione dell'unità nazionale, perdendo di vista l'interesse generale e il disegno complessivo, che era quello della necessità di far nascere un paese unito, di far nascere l'unità d'Italia e di convertire, come dire, in storia un atto geografico esistente. Noi siamo un paese, come dire, circondato dal mare e da un arco alpino che è già naturalmente disegnato per una sua, diciamo, realtà naturale. E quindi credo che la storia abbia in qualche modo portato a coronamento questa, diciamo, indicazione che già la geografia ci dava attraverso questo aspetto del nostro paese. Credo quindi che un pensiero critico nei confronti del processo unitario debba essere fatto, ma senza dimenticare la necessità di questo atto, l'importanza significativa. Vero è che questo atto ha lasciato dei conti in sospeso. Vero è ad esempio che c'è stato un processo di estraniazione dall'unità nazionale che è perdurato per molti anni, ci sono voluti massacri come quello della Prima Guerra Mondiale per cercare in qualche modo di integrare questo paese. Vero è che la stessa immigrazione dall'Italia del sud e da alcune zone del nord nei primi del Novecento e alla fine dell'Ottocento è stato anche un effetto del processo unitario. Però non dobbiamo essere impietosi nel considerare i 100 anni e passa di unità italiana. Dico 100 anni e passa perché ritengo che dall'unità d'Italia, cioè dal 1861 alla fine degli anni 60, questo paese, nonostante tutte le sue contraddizioni, nonostante due guerre mondiali, nonostante un regime autoritario, nonostante guerre coloniali, sia cresciuto straordinariamente. E se questo è avvenuto anche per la presenza di uno Stato unitario, centralista. E dobbiamo riconoscere che in 100 anni questo paese, che ha avuto sempre una stentata borghesia, ha formato una borghesia di Stato costituita da prefetti, funzionari, professori, carabinieri, forze dell'ordine, dipendenti pubblici, che per 100 anni hanno dato luogo ad un cambiamento strutturale profondissimo del nostro paese, tutto sommato positivo. L'alfabetizzazione, il benessere del nostro paese, la grande integrazione che c'è stata nonostante tutte le contraddizioni. Quindi quando parliamo della storia d'Italia di questi 150 anni, dobbiamo saper distinguere i primi 100-110 anni che sono stati storie di crescita del nostro paese con un processo invece di decomposizione dell'identità nazionale che è avvenuto dalla fine degli anni 60 in poi, che è dovuta a vari fattori, che possono essere l'avvento di una cultura, diciamo, non fondata sulla responsabilità e sul merito, una cultura che io identifico nella mia lettura in gran parte con la ventata sessantottina, oppure con l'avvento delle regioni che hanno ulteriormente indebolito l'assetto, il prestigio dello Stato, il decoro dello Stato e anche l'efficienza dello Stato, duplicando le burocrazie a livello locale, anziché trasferire responsabilità. E così potremmo dire tanti altri eventi che negli anni 70 hanno determinato una degenerazione progressiva del nostro paese. Questo per dire che quando oggi risalgono conati di separazione, questi conati forse vanno ricondotti più al declino di questi ultimi decenni che alla storia unitaria del nostro paese, perché questo paese bene o male per 110-120 anni è cresciuto, ha funzionato, ha avuto un ruolo, è diventata una delle maggiori potenze industriali, ha accettato e, se vogliamo, anche conseguito la scommessa della modernizzazione attraverso processi che hanno dato comunque dei risultati di cui non possiamo obiettivamente lamentarci. E allora questa visione, diciamo, più disincantata dell'unità d'Italia, ma non per questo autodenigratrice, come capita alle volte, credo che sia necessaria per un paese maturo che voglia ripensare la propria identità. L'identità non è un fatto immobile, non è una sorta di, come dire, di oggetto sacro che noi abbiamo, di reliquia che dobbiamo conservare. L'identità è mobile, è in movimento. Infatti io preferisco parlare più di tradizioni che di identità, perché la tradizione implica una trasmissione e quindi la capacità anche evolutiva di trasmettere eredità, valori, saperi, culture attraverso un cambiamento incessante. Quindi la tradizione è tutt'altro che un necrologio di una società che non c'è più. La tradizione è un fatto vivo che si trasmette, quindi credo che tradizione italiana abbia forse un significato perfino più efficace di identità nazionale, perché implica il movimento. La tradizione, diceva un filosofo francese, Gabriel Marcel, è fedeltà creatrice. Quindi c'è un aspetto di fedeltà a un'identità, ma c'è anche la creatività di un movimento, quindi la capacità di assimilare lungo la storia altri processi e di vivere attraverso forme di compensazione i fenomeni che si contrappongono o che si affiancano a questa identità. E oggi il fenomeno prevalente, da 20 anni a questa parte se ne parla, ma il processo in realtà è molto più antico, è la globalizzazione, il principale, come dire, interlocutore dell'identità nazionale. Ora, noi credo che dobbiamo avere il senso critico di saper dare alla globalizzazione i suoi contenuti reali. La globalizzazione è un processo che fa crescere enormemente gli strumenti per vivere. Non è un processo che, come dire, dà senso a un'esistenza collettiva. È un processo fondato sull'espansione planetaria della tecnica e sull'espansione planetaria del mercato, che produce fenomeni che sono complesso positivi con alcune controindicazioni negative. Ma è un processo. Dire di essere, come dire, favorevoli o contrari alla globalizzazione è un esercizio abbastanza sterile, perché è un processo in atto, un processo che avviene, che bisogna cogliere così com'è. Il problema è vedere come rispondere alla globalizzazione, cioè come tentare di governare questi processi. E allora è necessario che a fianco a questo processo di espansione illimitata della tecnica e del mercato vi sia dall'altra parte un processo compensativo in termini di maggiore consapevolezza culturale e civile. E allora l'identità è uno dei fattori che rianimano un discorso di sensibilità culturale e sensibilità civile, perché consente di compensare la crescita enorme, straordinaria, indotta dalla globalizzazione con una maggiore consapevolezza della propria cultura, delle proprie caratteristiche, della propria fisionomia, in un rapporto dialettico con altre culture, con altre civiltà, con altre società. L'idea di un'identità nazionale all'interno della globalizzazione non è quindi l'idea di una specie di fortilizio assediato che rifiuta il mondo, ma è l'idea di una comunità aperta, cioè di una comunità che incontra altre comunità, che rispetta le altre identità comunitarie a partire però dalla propria, e che quindi ritiene che l'identità sia nell'epoca della globalizzazione non un residuo del passato o una sorta di forziere che dobbiamo difendere dagli assalti pirateschi della globalizzazione, ma che sia al contrario un motivo in più, una ricchezza in più per la globalizzazione, perché se la globalizzazione garantisce processi di crescita tecnico-economica, è necessario che ci siano anche altri fenomeni che garantiscano il livello culturale di un paese, il livello civile, l'appartenenza, il senso dello Stato e delle istituzioni, il senso delle leggi, il senso di una storia che si trasmette. Ecco, l'identità e la globalizzazione sono quindi in qualche modo due aspetti che si bilanciano e che costituiscono oggi l'unica cifra per entrare nella condizione contemporanea senza cedere, diciamo così, a una sorta di automatismo fondato sul primato della tecnica o a una sorta di integralismo fondato soltanto sul primato esclusivo della propria terra, della propria etnia, della propria identità. Bisogna al contrario saper vivere la propria identità, le proprie radici nel confronto incessante e permanente con il mondo circostante, quindi attraverso un'idea di identità disponibile, per così dire, di un'ospitalità culturale che ovviamente nasce a partire dalla identità del proprio popolo e dal rispetto delle proprie culture, ma che poi si allarga anche ad altri contesti. Qui bisogna dire che ci sono due modelli culturali che noi possiamo scegliere. Un modello culturale universalista, che ritiene di essere, come dire, un modello di ancoraggio della globalizzazione, una specie di supporto culturale alla globalizzazione, e che ritiene che si debba in qualche modo cancellare ogni residuo identitario perché sono residui ostili rispetto alla globalizzazione, residui ostili rispetto alla dignità umana e quindi alla difesa, alla tutela dei diritti di tutti. E quindi la convinzione che si debba in qualche modo uscire da questa dimensione di identità. E questa è un'idea di globalizzazione che sposa la solidarietà a partire da chi è più lontano, a partire da chi viene da lontano, a partire da chi è più debole e vive in mondi diversi. È un modello culturale che personalmente rispetto, ma che non ritengo di condividere. Un altro modello culturale è invece fondato su un'idea di solidarietà a partire da chi ti è più vicino, che non è una solidarietà che esclude le altre solidarietà, ma si allarga, come dire, per cerchi concentrici, da chi ti è più vicino a chi ti è più lontano. Ed è, a mio avviso, un modo naturale, perché è naturale e spontaneo che ciascuno di noi tenga di più alle persone e alle cose che gli sono più vicine. È naturale che non si possa mettere sullo stesso piano il dolore per la perdita di una madre con il dolore per la morte di una persona che vive lontano da noi, che noi non conosciamo. E quindi, partendo da questa considerazione di prossimità, il prossimo è ciò che è più vicino a noi, si debba allargare poi progressivamente per cerchi concentrici. Questa è l'idea di identità nazionale applicata ad un contesto culturale, cioè la convinzione che la solidarietà si debba esercitare nei confronti dell'umanità intera, ma a partire da quella che ti è più vicina, a partire da quella della tua città, a partire da quella della tua famiglia, naturalmente, per allargarsi al contesto della propria regione, della propria nazione, della propria civiltà locale. Diceva Dostoevskij, e con altre parole lo confermava anche Leopardi, che di solito l'amore per l'universalità, per i diritti universali, si accompagna all'odio o all'indifferenza per i vicini. Alle volte il rischio di quegli amori astratti, universali, è proprio quello di innamorarsi di categorie umane e di perdere di vista la persona che ti è accanto e che soffre. Forse, ecco, un modello diverso di compatibilità tra identità e globalizzazione dovrebbe essere quello che al contrario sposa convinzione che la solidarietà debba partire da chi ti è più vicino e debba poi allargarsi appunto a contesti sempre più ampi. È un modo per ripensare l'identità nazionale in una società globale ed è un modo anche per considerare che oggi l'identità nazionale non si può racchiudere ed esaurire nell'idea della sovranità degli stati nazionali. Cioè, oggi il concetto di identità nazionale è un concetto culturale più che istituzionale, è un concetto legato più ad un modo di essere, di vedere, di pensare, piuttosto che a un assetto territoriale ben definito, a confini sanciti appunto da dogane, a una fortezza in qualche modo delimitata. È un concetto culturale, ma proprio per questo ha una sua fluidità e una sua vitalità molto maggiore rispetto a quelli del passato. E allora, per arrivare così, come dire, a qualche conclusione di questa analisi, io credo che sia importante oggi ripensare all'identità nazionale, alla storia del nostro paese, proprio nei termini di una identità culturale e civile, cioè di un'identità non semplicemente legata allo Stato italiano, non semplicemente esaurita nei confini istituzionali o burocratici del nostro paese, ma al contrario ad una sorta di valore aggiunto, di sensibilità, di stile italiano, di carattere nazionale, che credo siano i tratti vitali del nostro paese. E sappiamo quanto sia importante oggi, nell'epoca della globalizzazione, avere una identità condivisa e uno stile che ci identifichi, evitando l'uniformità globale. Cioè, oggi la identità culturale italiana può essere una grandissima ricchezza, una grandissima opportunità, soprattutto se correlata alla valorizzazione dei luoghi e dei beni culturali, e credo che quella sia davvero la nostra principale ricchezza del nostro paese. Quindi ripensare alla storia del nostro paese, ripensare al processo unitario e risorgimentale, significa non semplicemente ricordarsi di una data del passato, o non semplicemente avvicinarsi al rispetto delle leggi costituzionali, che pure costituiscono un importante riferimento, ma significa capire quanto è importante, in un'epoca di spaesamento, di deterritorializzazione, di globalizzazione, quanto sia importante avere un legame attivo con un territorio, avere uno stile che ci caratterizza, avere una fluidità di pensieri, di riferimenti, di opere culturali che possono dar vita e dar luogo ad una coinè nazionale ed europea in grado di rappresentare una risposta alla globalizzazione. Quindi mi piacerebbe che l'occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia fosse, come dire, ripensata in questa chiave, non soltanto in chiave di memoria, ma di progetto d'Italia, di progetto italiano, di proposizione nei confronti del futuro, ritenendo che oggi il vero conflitto non sia più quello che ha animato il Novecento, cioè i fautori e difensori del passato e i fautori dei domani che cantano, del son dell'avvenire, del futuro. Oggi il vero, come dire, antagonista sia la dittatura del presente, cioè la convinzione che tutto quello che ha senso si esaurisce nel momento, nell'attimo, e che passato e futuro non abbiano alcun significato. Ecco, questa credo che sia la peggiore delle dittature, cioè la convinzione che soltanto ciò che è momentaneamente presente e vigente sia la cosa che vale. La perdita del passato unita alla perdita del futuro è in realtà la perdita della condizione umana, della dignità della persona e della dignità delle comunità. E quindi recuperare la memoria storica vuol dire non soltanto fare i conti con il nostro passato, vuol dire creare le precondizioni per il nostro avvenire, per poter cioè navigare nella globalizzazione avendo dei riferimenti, avendo dei punti di riferimento, delle stelle polari, dei luoghi di provenienza e dei luoghi di destinazione. Quindi l'idea di un destino dei popoli credo che sia oggi più che mai necessario. Ho pubblicato in questi giorni un libro, Amor Fati, che è un libro di riflessione esistenziale sulla vita tra caso e destino, ma ho dedicato un paio di capitoli proprio all'idea del destino comunitario, cioè al fatto che oggi in una società che avverte l'individualità non solo come destino ma anche come condanna, credo che sia oggi più che mai necessario ripensare un destino comune, alla convinzione di avere, come dire, un destino consorte che ci consente di vivere la nostra esperienza di vita, la nostra storia anche come popolo e non soltanto come individui, perché non siamo soltanto dei singoli, non siamo soltanto degli individui, ma sin dalla nascita abbiamo dentro di noi, come dire, il rapporto con la storia, con l'identità, con le persone che ci hanno fatto, nutrito e fatto crescere, e quindi ognuno di noi in realtà ha dentro di sé una comunità. In interiore homine habitat communitas, volendo parafrasare Sant'Agostino in un ambito diverso, e quella comunità chiamiamola pure Italia, non con i toni, diciamo, retorici a cui eravamo abituati nelle fanfare del Novecento, ma attraverso un più disincantato ma anche più attivo senso di partecipazione culturale e civile all'identità italiana.